L'8 agosto 2025, Armenia e Azerbaijan hanno siglato un accordo di pace mediato dagli Stati Uniti d'America. L'accordo segna un momento storico dopo decenni di tensioni e guerre legate al Nagorno-Karabakh, regione contesa fin dagli anni 90 e teatro di due conflitti armati, 91-94 e 2020. La nuova intesa include una serie di capitoli che riguardano i rapporti commerciali e rafforzano la cooperazione economica, riducendo il rischio di nuovi scontri. Per entrambi i paesi rappresenta non solo la fine di un capitolo di ostilità, ma anche l'occasione di reintegrarsi nei circuiti regionali e globali, trasformando una linea di frattura in un ponte verso stabilità e sviluppo. Tutto così semplice? No. Ve lo spiego ora. La delimitazione dei confini e sicurezza, lo sblocco di cooperazioni economiche, il ritiro delle controversie legali internazionali, la presenza di monitoraggio e forze di terzi paesi sulla situazione di pace, il mantenimento della missione di monitoraggio dell'Unione Europea al confine fino al 2027 e una serie di eventuali modifiche sulle norme costituzionali armene, rimuovendo riferimenti al Nagorno-Karabakh, molto probabilmente attraverso un referendum entro il 2027. Fino a qua sembra che si tratti di una serie di punti legati al mantenimento della pace tra Azerbaijan e Armenia. Ma in particolare ci sono due punti che danno un valore molto importante a questo storico accordo, soprattutto dal punto di vista geopolitico. Ritiro dal gruppo di Minsk, Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Armenia e Azerbaijan hanno concordato di uscire dal gruppo di Minsk, l'organo di mediazione costituito da Russia, Francia e USA, considerato ormai obsoleto. Il gruppo di Minsk dell'OSCE, guidato da USA, Russia e Francia, è stato per quasi 30 anni il principale tavolo di negoziazione sul Nagorno-Karabakh. Lasciarlo significa chiudere ufficialmente quel formato e riconoscere che il conflitto è ormai risolto alle condizioni attuali, senza più un processo multilaterale aperto. Concretamente cosa vuol dire questo? L'OSCE perde uno dei suoi dossier più visibili, segno che il suo ruolo come mediatore nei conflitti post-sovietici è in declino. La Francia, che sarebbe la co-presidente, vede ridursi la propria influenza diretta nella regione caucasica, anche perché il nuovo accordo è stato mediato dagli Stati Uniti, con un'impostazione bilaterale e pragmatica, marginalizzando Russia e Francia. La Russia, pur formalmente parte del gruppo Minsk, è stata tenuta fuori dalla mediazione finale. L'uscita è più di un gesto burocratico. È una dichiarazione politica che il conflitto è chiuso alle condizioni fissate ora, che l'Occidente è disposto a bypassare vecchi meccanismi multilaterali e che Armenia e Azerbaijan si affidano a nuovi sponsor geopolitici, Stati Uniti d'America e in parte Turchia, invece che a Mosca o all'OSCE. In questo momento di tensione tra Baku e Mosca, questo punto ha un'importanza intrascurabile. Con questo accordo firmato con la spinta di Washington, l'Azerbaijan appare in fase di distacco da Mosca, cercando partnership alternative in ambito energetico e infrastrutturale. Questo mutamento strategico segna una progressiva erosione dell'egemonia geopolitica russa nella regione. Un altro punto dell'accordo è la Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP. Ma cos'è esattamente? Il nuovo corridoio, battezzato come il Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP, ma in realtà si chiama il corridoio di Zangezur, unisce l'Azerbaijan alla sua exclave Nakhchivan attraverso l'Armenia. Il corridoio sarà operativo secondo la legislazione armena, ma gli Stati Uniti d'America avranno i diritti esclusivi di sviluppo per 99 anni. Il progetto include infrastrutture come strade, ferrovie, oleodotti, gasdotti e fibra ottica. Questo punto rafforza la centralità della Turchia, perché questo tratto diventa una via importante tra l'Asia centrale e l'Europa, con Ankara che assume un ruolo di snodo chiave nel trasporto, nel commercio, nei flussi energetici. La Turchia si avvantaggia da prospettive di aumento del traffico merci, energie e logistica. Essendo essendo un ponte naturale verso l'Europa, il paese è destinato a trarre vantaggi significativi dalla ripresa delle rotte interregionali, potenziando la sua importanza nei collegamenti transcontinentali. Anche con questo punto dell'accordo, dal punto di vista geopolitico, diminuisce l'influenza russa e accelera l'integrazione della regione all'orbita occidentale. La Turchia si posiziona come un attore chiave nel rafforzamento dei legami tra Europa, Caucaso, Asia centrale. Ma in questa partita c'è un altro attore importante che ha reagito in modo negativo, è l'Iran. L'Iran ha già espresso una ferma opposizione a questo progetto, minacciando di bloccarlo. Uno dei principali consiglieri del leader supremo iraniano, Ali Akbar Velayati, ha avvertito che qualsiasi trasformazione geopolitica di questo tipo in prossimità dei confini del suo paese sarà impedita, anche con mezzi militari. Velayati ha definito il corridoio una forma di tradimento politico che mina l'integrità territoriale dell'Armenia. E lo ha descritto come non un passaggio per i mercenari di Trump, ma la loro fossa comune. L'Iran sostiene inoltre che l'iniziativa permetterebbe alla NATO di posizionarsi come un serpente tra Iran e Russia, aumentando le tensioni geopolitiche nella regione. Infine, il Ministero degli Esteri iraniano ha espresso preoccupazione per ingerenze straniere vicino ai propri confini, ribadendo che progetti infrastrutturali di questo tipo dovrebbero avvenire con rispetto per la sovranità nazionale e l'integrità territoriale, senza interventi esterni. Ovviamente questo nuovo corridoio avrà un impatto negativo a livello economico per Teheran. L'utilità del corridoio ridurrebbe la rilevanza delle attuali connessioni che passano per il territorio iraniano, causando un impatto negativo sui profitti del transito e sullo sviluppo infrastrutturale iraniano. Dunque, visti i punti di questo accordo, che soluzione possiamo tirare? Ci troviamo di fronte a un quadro in cui la diplomazia europea viene scavalcata e ferita in questo momento storico dal suo alleato Washington. La presenza della Russia subisce un nuovo colpo pochi giorni o settimane prima dell'incontro che avverrà tra Putin e Trump in Alaska. L'accordo rappresenta un nuovo passo che rafforza l'isolamento e l'accerchiamento dell'Iran, piano statunitense in atto ormai da più di 10 anni in modo intensivo. Questo quadro infine aiuta ad allontanare in parte la Turchia dalla Russia, tradizionale alleato anche dell'Armenia, e dall'Iran, ricucendo il suo rapporto con l'Armenia e ottenendo alla fine un canale economico con l'Azerbaigian con l'ausilio degli Stati Uniti d'America. Quindi possiamo parlare di un accordo che rafforza l'asse Ankara-Baku-Washington. Un accordo che trova sostegno e riconoscimento anche in Israele. Infatti, il primo ministro israeliano Netanyahu si è congratulato con Trump e ha sottolineato che il suo governo sostiene pienamente l'accordo. Il messaggio è stato accolto positivamente anche dal presidente azero Aliyev, che si è dichiarato grato a Tel Aviv, esattamente come ha fatto il primo ministro armeno Pashinyan. Si continua con il ridisegno del Medio Oriente e del Caucaso, dove i vincitori sono principalmente Washington, Ankara e Tel Aviv, insieme a Baku e Yerevan.